Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori da parte di Diego Manetti e un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria per questo consueto appuntamento del primo sabato di ogni mese in seconda serata per cercare di sollevare quel velo di silenzio che copre argomenti tanto importanti quanto tacitati oggigiorno. Intendo parlare dei novissimi, di quello che riguarda la vita dell'uomo nel suo significato più profondo, quello che richiede di andare al di là di uno sguardo superficiale, puramente intramondano o terreno, per cercare di cogliere un senso più vero, più pieno, a tutto quello che riguarda la vita dell'uomo in tutte le sue dimensioni, spingendosi al di là di quella soglia così drammatica che è la morte. Questa soglia drammatica che abbiamo visto in maniera retrospettiva dà un significato totalmente diverso alla vita dell'uomo a seconda di come la si intenda. Questa morte, che se è la fine assoluta dell'esistenza umana, evidentemente rende l'avventura dell'esistenza terrena di ogni individuo qualcosa di indecifrabile, di assurdo. E se invece una porta che si spalanca sull'eternità evidentemente dà un significato, una consistenza, una capacità di lettura dei fatti ben diversa. Ma c'è un momento, immediatamente dopo la morte, che abbiamo cominciato a esplorare le volte scorse, che è quello del giudizio. Abbiamo premesso come ci sono due forme di giudizio di fronte alle quali l'anima si trova, ed è il giudizio particolare prima e poi il giudizio universale. Abbiamo spiegato come la diversità sta nel fatto che il primo è immediato, il secondo avviene alla fine dei tempi, alla fine del mondo, quando ci sarà la parusia, il ritorno di Cristo nella gloria, il combattimento escatologico che sancirà la definitiva sconfitta del male. E la seconda differenza importante è che il giudizio particolare riguarda l'anima, il giudizio universale riguarda la persona, nel senso che c'è la resurrezione dei corpi per la vita o per la morte eterna, per il paradiso o per l'inferno, e diciamo che quello che è già stato emesso come giudizio in un primo momento viene ribadito. Qualcuno potrebbe pensare, ma è una inutile ripetizione. In realtà abbiamo visto già le scorse puntate come si tratta di un inveramento di quel giudizio personalissimo e particolare che potremmo dire avviene a tu per tu tra l'anima e il Signore, e questa volta avviene tra la persona e Dio onnipotente e diciamo l'intera corte universale. Di fronte a tutti viene confermato il giudizio nel quale l'anima già si trova dal primo istante della sua morte. Mi riferisco a un giudizio di salvezza che può essere il purgatorio e poi il paradiso o il paradiso immediatamente, e l'altra parte invece un giudizio di condanna che è appunto l'inferno. Possiamo dire che c'è un aspetto sociale di ogni peccato che va dal cattivo esempio alle conseguenze che materialmente, moralmente, spiritualmente toccano le altre anime, le altre esistenze, per cui è anche un'esigenza di giustizia, abbiamo detto, che ci sia un giudizio universale. Ma quello di cui vorrei parlare questa sera è proprio il giudizio particolare, o meglio un aspetto di questo giudizio che riguarda il rapporto con colui che giudica. Abbiamo detto più volte che chi ha titolo pieno a giudicare l'uomo è soltanto il Signore, perché essendo Gesù Cristo vero Dio e vero uomo, abbiamo detto in maniera forse un po' semplice, ma direi sufficiente per comprendere il taglio teologico della questione, che in quanto vero Dio ha titolo a giudicare, in quanto vero uomo ha titolo a giudicare l'uomo in modo particolare. E allora quando ci si chiede ma chi incontrerà per primo l'anima di questo quel defunto nel primo istante dopo la morte, se vogliamo chiamarlo così, beh, non incontra in maniera generica Dio, incontra il Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, che in quanto uomo giudica ciò che ben conosce, perché ha assunto, elevandola alla gloria dell'eternità e del paradiso, la nostra natura umana, e in quanto Dio, appunto, può ovviamente giudicare, è il giudice supremo. Ed è importante notare come questo momento del giudizio oggi venga quasi rifiutato in maniera sdegnata dall'uomo, Pensate tutte le volte che si parla del diritto al suicidio, come se l'uomo potesse fare della sua vita quello che vuole, nel bene e nel male, e sulla premessa implicita che nessuno ha il diritto di giudicarlo. Pensate quante volte in questo tempo in cui tutti giudicano tutti, attraverso i social, si ha una esposizione alla gogna mediatica, spesso immediata per chi soltanto pronuncia una parola in più, magari del dovuto, per chi magari si espone in un modo che non è politicamente corretto, per chi compie qualche gaffe, qualche scivolone. Ma questi stessi che si trovano a giudicare tutti e chiunque, non accettano di essere giudicati. Ecco, quello che l'uomo fatica ad accettare è che in una vita in cui pretende di essere il padrone di se stesso, del proprio destino, alla fine debba trovarsi a rendere conto a qualcuno di fronte al quale ci sentiamo spesso forse come gli imputati nel momento del giudizio. Ecco, il tema che voglio affrontare questa sera nello specifico è proprio questo. Si parla tanto del giudizio dell'anima dopo la morte, del giudizio della persona nel momento della parusia, alla fine dei tempi. Non si potrebbe forse temere Gesù in quanto giudice, piuttosto che amarlo? Con il parlare tanto del giudizio, avendo quasi un linguaggio che sembra più tipico della giurisprudenza, del campo del diritto, non si rischia di infondere timore nei confronti del Signore? Ecco, questa è un'obiezione plausibile e lo riconosco anche con dispiacere, forse è anche l'alibi con cui tanti non credenti oggigiorno giustificano il loro allontanamento dalla fede. Immaginate tutto quello che è l'ambito della morale, soprattutto della morale sessuale, la pratica della confessione per cui si mette il cuore nelle mani di un ministro di Dio chiedendo perdono dei peccati. Tutti questi rinnegamenti di sé, tutti questi abbassamenti dell'amor proprio, tutti questi moti di umiltà, evidentemente a chi preferisce il proprio io a Dio, sono pesanti. E allora la scusa è quella di dire: ma nessuno mi può giudicare. Se Dio è semplicemente un giudice, ne faccio a meno. In realtà sappiamo che Dio è anzitutto un padre misericordioso, ben prima di essere un giudice. Per avere una conferma è sufficiente andare a leggere quella che un tempo si definiva la parabola del figliol prodigo che troviamo nel Vangelo secondo Luca al capitolo 15 e che possiamo poi anche indicare come la parabola del padre misericordioso e dei due figli. È una pagina che io lo so, pensiamo di conoscere, ma è bene riascoltarla sapendo che la parola di Dio è sempre viva e che a volte riserva anche delle sorprese. Allora la leggiamo e la commentiamo insieme. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano. E là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Ecco, è importante notare come questa richiesta del dammi quello che mi spetta è qualcosa che deve avere spaccato il cuore a questo padre, perché è un po' come dire dammi la mia eredità, ma di solito l'eredità si riceve quando il genitore è morto, quindi è un po' come giocare ad anticipo, un po' come se un figlio dicesse al padre guarda che io ti considero come se fossi già morto. E dopo un po' parte per un paese lontano, non è tanto una lontananza fisica, probabilmente, quanto una lontananza di valore. Su un piano assiologico, su un piano morale, possiamo dire che c'è un allontanamento dagli insegnamenti ricevuti nella casa paterna e forse anche dalla oculatezza del padre che ha così ben amministrato gli averi di famiglia al punto da poter consegnare una certa somma al figlio, si capisce che qui si è invece nella sprovvedutezza più totale, perché vivendo da dissoluto sperpera tutto. Quando ebbe speso tutto, prosegue l'evangelista Luca, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Quindi c'è un male che è la povertà, prodotta dalle proprie scelte sbagliate e di peccato, che si aggrava per una circostanza esteriore. Tante volte abbiamo sperimentato, credo, anche noi questa condizione in cui il male che stavamo sperimentando per un nostro peccato è andato aggravandosi per qualche situazione esterna che non avevamo scelto. Cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Ecco, immaginate questo che forse era il figlio di un borghese, una persona abbiente dell'epoca, che va a servizio e in più va a pascolare i porci. Ora, nell'ambito del contesto dell'epoca, è evidente che per un ebreo la carne del maiale era impura e quindi pascolare i porci voleva dire fare il mestiere più impuro che ci potesse essere, che tagliava fuori dalla comunità perché non si poteva frequentare il tempio, si era considerati impuri e quindi esclusi da quei legami, da quelle relazioni, come se perso il rapporto col padre, si perde il rapporto con Dio, si perde il rapporto con la comunità e questo ragazzo si trova da solo. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava, come se fosse invisibile. Allora rientrò in se stesso e disse: "Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni." Ecco, qui è interessante vedere come rientrare in se stessi, noi diremmo oggi rinsavire, no? È ritornato in sé, finalmente gli è venuta un po' di cognizione, sì, ma dettato dalla fame, non è un pentimento onesto, non c'è anzitutto il dolore per aver fatto sentire abbandonato, sfruttato e non amato questo padre, c'è il pentimento del dire ho fatto una scelta sbagliata, chissà quante volte anche la nostra confessione è così. Chissà quante volte, cari amici, anche noi rischiamo di avere un dolore imperfetto, in cui magari ci vergogniamo di come ci siamo comportati perché non è all'altezza dei nostri standard morali o di relazione con il prossimo, ma non consideriamo anzitutto come fonte di dolore quello che è l'aver fatto male al Signore. È quello che aver recato dispiacere al suo cuore. Mi colpisce tanto quando leggo l'epistolario di Santa Gemma Galgani, notare come per la santa di Lucca, morta in così giovane età, ad appena 25 anni, in realtà la consapevolezza del peccato era profondissima. Tante volte Santa Gemma ringrazia il Signore per questo dono. Gesù oggi mi ha donato un dolore perfetto per i miei peccati, che era come dire la certezza di sapere quanto profondo fosse l'amore per il Signore. Il problema non erano le cose fatte, le cose dette o pensate, o le omissioni, ma come tutto questo si riverberava nel rapporto col Signore. Ecco, in questo caso il figlio il prodigo, scusate, che non si è ancora pentito sinceramente, si muove semplicemente per i suoi bisogni. E soprattutto pensa: ma i garzoni a casa di mio padre stanno meglio di me. Vado, gli dico: considerami pure un servo. Ti chiedo perdono, ma almeno dammi da mangiare. Si prepara il suo bel discorsetto e immaginatevi, neanche ha capito ancora sto padre com'è. Ma non l'aveva capito neanche prima. Non l'avrebbe trattato così male, non se ne sarebbe andato così, no, portandosi via tutte le cose materiali che gli appartenevano. Vedremo poi che i beni che questo padre poteva dare a questo figlio era ben altro. In realtà torna non sapendo che questo padre non è un padrone come immaginava lui, non è il giudice severo disposto a punirlo, che poteva dire benissimo, allora adesso ti metto a fare l'operaio come gli altri. No, questo è un padre. Infatti cosa leggiamo? Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e, commosso, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Questo è un versetto, versetto 20 del capitolo 15 di Luca, bellissimo. Quando era ancora lontano, non tanto perché lo vede in lontananza, anche se possiamo immaginare che questo padre tutti i giorni sia andato sulla porta di casa, sia salito sul terrazzo, sul tetto per vedere in lontananza se magari questo figlio tornava. Lo scrutava quando era ancora lontano col cuore, cioè questo padre ha continuato ad amarlo, a sentire vicino a sé questo figlio ingrato, anche quando questo figlio era ancora lontano dal padre, tanto che lo considerava un padrone e dice: beh, pur di mangiare gli chiedo scusa e poi mi farò dare uno stipendio e un po' di pane. E invece questo padre lo vide. Commosso gli corse incontro. Ora che un adulto, un anziano, corresse incontro ad un ragazzo, non si usava, non era rispettoso dei ruoli e delle gerarchie sociali all'epoca. Quindi vuol dire che questo padre è disposto anche a perdere qualcosa del suo onore, dell'amor proprio, del rispetto di sé, pur di avere quanto prima tra le braccia questo figlio. Gli si gettò al collo e lo baciò. Ecco, atteggiamenti di affetto che non si hanno con un servo. Sono atteggiamenti che dicono: io sono tuo padre. Ma il figlio non ha ancora capito. Il figlio è talmente ostinato e talmente chiuso che replica secondo il suo cliché, il suo standard. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello, rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. L'anello al dito era il simbolo della famiglia, dell'appartenenza familiare, era l'anello con cui spesso c'era il sigillo per poter firmare, diremmo noi oggi, le lettere, era una sorta di procura, era come dire: tutto ciò che è mio è di nuovo tuo, non preoccuparti di quello che hai dilapidato e sperperato, e i calzari ai piedi, perché i servi non avevano i calzari, andavano in giro a piedi nudi. E quindi voleva dire che era di casa, di famiglia, che era un figlio. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Ecco, questo è proprio bello, no? Perché entrando dentro questa storia, intanto si capisce quanta luce possa gettare sulle attese di tanti genitori che hanno visto magari i figli, no? Andarsene sbattendo la porta. E io dico: questa è una storia che dà grande speranza. A volte la stessa durezza della vita, le conseguenze dei propri sbagli portano dei ripensamenti, dei riavvicinamenti che magari non sono fatti per le migliori ragioni, ma che intanto portano il figlio a riprendere un rapporto con i genitori. Partiamo da lì, cerchiamo di ricucire, lasciamo il tempo al Signore di operare con il suo amore e la sua misericordia nel cuore di chi era lontano. È importante capire che i beni più grandi che questo figlio poteva avere a sua disposizione sono gli stessi che vengono offerti al figlio maggiore quando, indignato per questa festa e questo spreco, non vuole entrare in casa a partecipare di questa festa. E cosa dice il padre? Ma tutto ciò che è mio è tuo. Ecco, quello che è più nostro in assoluto, che cos'è? La vita. Noi stessi, è come se questo padre dicesse: io sono tuo. Prima ancora di vedere le mie cose, le mie ricchezze, i miei averi che condivido con te, considera che sono io il bene più grande che ti sto donando. Questo è un discorso che Dio Padre fa a ciascuno di noi. Questa storia, dunque, che penso si conosca, ecco, si presta a una bella riflessione sulla figura del padre che perdona. Quella versetto centrale che ho commentato dice chiaramente l'iniziativa di un padre disposto a perdonare all'infinito, verrebbe da dire 70 volte 7, cioè in maniera senza misura. Se pensassimo che Dio fa così ogni volta che peccando anche noi ci allontaniamo da Lui, beh, non lo vedremmo tanto come un giudice, quanto come un padre buono che desidera riabbracciare i propri figli. Lo stesso Gesù dice chiaramente di essere venuto tra noi non per giudicarci, ma per salvarci. È il capitolo 12 di Giovanni, il versetto 47. Non sono venuto per condannare il mondo, dice Gesù, ma per salvare il mondo. Che non significa che non ci possa essere anche un giudizio di condanna, ma l'obiettivo era la salvezza, il desiderio. Questo è il mistero della volontà salvifica universale del Padre. Prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 4. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Dio desidera che tutti siano salvi, poi purtroppo per loro scelta molti uomini rinunciano a questa salvezza. lasciatemi usare questa metafora che viene dal mondo della scuola in cui lavoro, mi verrebbe da dire che un insegnante, un professore desidera che tutti i suoi studenti siano promossi, ma molti questa promozione la rifiutano. Ora, Santa Faustina Kowalska, che è una religiosa polacca che vive tra il 1905 e il 1938, mistica e veggente, che ha propagato il culto della Divina Misericordia e poi è stata canonizzata da Giovanni Paolo II nell'anno 2000, proprio a Santa Faustina Kowalska Gesù promette una speciale protezione per quanti diffonderanno la devozione alla Divina Misericordia. Questo amore misericordioso del Padre, che abbiamo visto così ben espresso dalla parabola del capitolo 15 di Luca, è legato a una promessa specialissima. Dice Gesù Santa Faustina: proteggerò, come una madre protegge il suo bambino, le anime che diffonderanno il culto alla mia misericordia per tutta la loro vita. Nell'ora della loro morte non sarò per loro giudice, ma salvatore. Questo è il passaggio chiave. Se là c'era un padre misericordioso, qui c'è un Gesù che dice addirittura sarò come una madre. È bello questa idea di Dio che è padre e madre. È come dire che ha la capacità di proteggere e di consolare, la capacità di dare quelle buone regole che aiutano a crescere e al tempo stesso quell'affetto che fa sentire amati e voluti. Questo è Dio perché è l'amore per essenza. E nel punto di morte per queste anime che saranno apostole, come è stata Santa Faustina Kowalska della Divina Misericordia, qual è la promessa del Signore? Sarò per loro non giudice ma salvatore. Ancora, sempre a Santa Faustina, Gesù ribadisce l'intenzione di usare misericordia verso tutti quelli che si pentono sinceramente. Quanto più grande è la miseria degli uomini, dice Gesù, tanto maggior diritto hanno alla mia misericordia, perché desidero salvarli tutti. Ancora una volta torna questo desiderio universale di salvezza delle anime, che fa sì che davvero si possa pensare che siamo anzitutto predestinati per il cielo e per il paradiso e che soltanto un nefasto rifiuto dell'amore di Dio può portare alla dannazione e all'inferno. Chi non vuol passare da questa porta, dalla porta della misericordia, dovrà passare per quella della mia giustizia. La sorgente della mia misericordia è stata aperta dal colpo di lancia sulla croce per tutte le anime. E sappiamo che dal costato squarciato dalla croce, dalla lancia, scusate, quando Gesù è in croce escono sangue e acqua, che sono il segno dei sacramenti dell'Eucarestia e del battesimo. E sappiamo che il primo è il lavacro dei peccati dell'uomo e il secondo è il simbolo di quel sacrificio eucaristico che ha permesso all'umanità di essere perdonata da tutte le conseguenze del peccato originale. Cristo muore in croce per redimere l'umanità, per riparare con un atto di infinita obbedienza alla disobbedienza dell'uomo, dei nostri progenitori, del peccato originale, e come segno di questa sua offerta sacrificale istituisce l'Eucarestia, proprio simboleggiata da questo sangue che esce dal costato di Cristo. È come una porta che si spalanca. Beh, quando abbiamo vissuto nel 2016 il giubileo della misericordia, abbiamo vissuto proprio questa esperienza qui, di una porta che si è spalancata, la porta della misericordia. Ed è una porta che è spalancata per tutte le anime. Dice Gesù a Santa Faustina: non ne ho esclusa nessuna. L'umanità non troverà né tranquillità né pace finché non si rivolgerà alla mia misericordia. Dì all'umanità sofferente che si rifugi nel mio cuore misericordioso e io la ricolmerò di pace. Bellissimo questo messaggio perché anche tante volte la regina della pace ci ha proprio assicurato che solo Gesù, suo figlio, è in grado di donare alle anime la pace che cercano. La misericordia che possiamo ottenere non solo nel giudizio finale, dopo la morte, ma di cui facciamo esperienza ogni volta che torniamo a Dio nel sacramento della riconciliazione. Questa misericordia è inizio di una vita nuova, è allontanare il male, il peccato che avvelenano il cuore dell'uomo e lo rendono schiavo del maligno, e restituire al cuore dell'uomo quella pace che tanto fortemente cerca. Quando Gesù, bambino, in grembo a Maria nell'apparizione del Natale 2012, dice a Maria: Io sono la pace, vivete i miei comandamenti. Anzitutto dice di essere Dio perché dice che i comandamenti sono suoi e i comandamenti sappiamo sono la legge che Dio ha dato a Mosè sul monte Sinai. Ma poi dice io sono la pace, non dice semplicemente vi insegno come trovare pace, sono io la vostra pace. Quante volte vediamo anche oggi l'incapacità di affrontare la vita, a volte il desiderio di scappare o di farla finita, di compiere gesti estremi. Quante volte la cronaca ci rimanda di esistenze frammentarie, interrotte, fallite, perché manca la pace profonda. Non basta che non ci sia la guerra materiale combattuta con le armi, non basta che non ci sia la tranquillità economica o gli esami del sangue in ordine, serve ben di più. È quella pace che riesce a sedare ogni inquietudine profonda nel cuore dell'uomo e solo il Signore la può dare. Ma per avere questa pace occorre riconciliarsi con Dio, sperimentando quella che è la divina misericordia. Ancora Gesù stesso chiede che il culto della sua divina misericordia venga riconosciuto dalla Chiesa, dicendo a Santa Faustina: Desidero che la prima domenica dopo Pasqua sia la festa della mia misericordia. Figlia mia, parla a tutto il mondo della mia incommensurabile misericordia. L'anima che in quel giorno si sarà confessata e comunicata otterrà piena remissione di colpe e di castighi. Desidero che quella festa si celebri solennemente in tutta la Chiesa. E una tale richiesta, dopo circa 70 anni, è stata finalmente accolta grazie a San Giovanni Paolo II, che ha istituito la festa della Divina Misericordia il 30 aprile del 2000, collocandola nella domenica successiva alla Pasqua e arricchendola del privilegio dell'indulgenza plenaria. E qui devo dire che purtroppo non tutti i parroci forse hanno preso nota di questa festa, che pure ha più di una ventina d'anni, perché a volte ci si dimentica, si dice seconda domenica di Pasqua e si va via. E certo si mira alla Pentecoste, certo si è ancora nella gioia della resurrezione, però che bellezza pensare che subito dopo Pasqua si aprono le porte della misericordia per il mondo intero. In fondo, che cos'è la Pasqua di resurrezione se non l'esempio estremo di questo amore misericordioso per il Padre che nel sacrificio del Figlio che muore in croce è disposto a perdonare l'umanità intera. Allora capiamo che Dio anzitutto è misericordia, è anzitutto bontà, è anzitutto paternità, prima ancora che semplicemente espressione di un giudizio. Allora non solo possiamo dire Gesù non si erge a giudice severo dinanzi all'anima che si presenta per il giudizio particolare, quello post mortem, ma in fondo lo stesso giudizio diventa un'espressione della divina misericordia, oltre a quanto la scrittura ci può dire in merito al desiderio di salvezza che Dio prova per ogni anima. Penso già al profeta Ezechiele, capitolo 18, versetto 23, quando dice: Forse che io ho piacere della morte del malvagio, dice il Signore, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? E certo, il Signore non gode certo quando l'empio rimane nel peccato e si incammina verso la perdizione eterna, ma desidera che nella vita trovi tempo e modo per convertirsi. Guardate che questa è una verità, importantissima, perché permette di capire, la dico così in maniera molto semplice, perché a volte le persone cattive godono di lunga vita. Quante volte sentiamo questa obiezione molto comune? Quella persona così buona è morta così presto, quella persona così cattiva, imbrigliata in cattive abitudini, cattive inclinazioni, dedita ai peccati, e invece vive così a lungo. Sembra che non le capiti mai nulla, ma provate a mettervi dal punto di vista di Dio. Se il paradiso è lo stato di bene, di felicità più grande a cui l'anima può aspirare, è evidente che un grande dono che si può fare e di morire in giovane età, perché il paradiso non dovremmo mai smettere di desiderarlo, dovremmo voler andare quanto prima incontro allo sposo per eccellenza, che è Gesù, sposo di ogni anima. Dall'altra parte, Se una persona è nel male, è bene che abbia una vita lunga, è bene che abbia ancora del tempo per tentare di convertirsi, di pentirsi i suoi peccati, di emendare le sue colpe, di riparare magari i torti che ha fatto. Allora dovremmo desiderare di poter vedere gli altri con gli occhi di Dio, di non protestare più per alcune morti che ci sembrano premature e per le quali recriminiamo, ecco, non ha potuto farsi una famiglia, farsi una carriera, come se queste cose contassero qualcosa rispetto al paradiso, e poi ancora invece capire che quando una persona fa del male e gode di ottima salute è perché Dio la sta preservando da problemi che potrebbero condurla a una disperazione ancora peggiore, che potrebbero tentarla di ostinarsi nel male e nel peccato, e cerca invece di aprire porte di conversione. Chissà che, non avvicinandoci noi stessi con prudenza, tenerezza e misericordia, non possiamo aiutare Dio in questa bella intenzione di salvezza anche per le anime più lontane. E poi c'è un'altra, ecco, esperienza che mi piacerebbe portare questa sera, oltre alla parabola del Padre Misericordioso, oltre all'esperienza di Santa Faustina Kowalska, ed è un'esperienza mistica che risale ormai a più di 25 anni fa, vissuta da Gloria Polo, una donna colombiana, un medico che proprio nel 1995 è stata colpita da un fulmine durante un temporale, ridotta in fin di vita. E questa dolorosa esperienza le ha aperto le porte di un incontro mistico con Dio, che l'ha trasformata da tiepida cristiana, qual era prima, a testimone delle realtà ultraterrene. E c'è una testimonianza molto bella di Gloria Polo, poi si trovano scritti e molti video anche su YouTube, per cui rimando sicuramente alla rete per poter trovare materiale, ecco, di prima mano. Ma potremmo dire, come lei stessa ha indicato, no? Questa sua esperienza è stato un viaggio mistico, quando dice: sono stata alle porte del cielo e dell'inferno. Come per ogni visione o esperienza mistica privata, occorre tenere presente la posizione della Chiesa. In questo caso è la posizione del vescovo di Bogotà, che è la diocesi in cui Gloria Polo risiede, e il vescovo di quella diocesi ha dato il permesso a Gloria di poter rendere testimonianza della sua esperienza. E forse non è tanto importante chiederci quale tipo di grado mistico abbia raggiunto Gloria Polo per poter raccontare le cose che racconta. Magari non è così importante riuscire a capire che tipo di esperienza ha vissuto a livello sensoriale, a livello psichico, a livello cognitivo, ma è importante capire il valore di verità, di autenticità che la sua testimonianza ci trasmette. Io ho avuto personalmente l'occasione di incontrarla più di una volta e ne ho sempre tratto un'ottima impressione. Una persona che gira al mondo senza chiedere nessun compenso, soltanto il rimborso per le spese di viaggio. Mi sono sempre sentito molto chiamato in discussione perché spesso dice: non giro vendendo libri. E dico: io di libri ne faccio, forse fin troppi, e vedo che invece lei gira solo per portare una parola, una testimonianza. Ecco, questo me l'ha resa credibile. Poi ho avuto modo di parlare alcune volte, privatamente, a tu per tu con lei, e ho visto una persona di profonda preghiera e di una fede nutrita di grande sapienza. Ora, tra le diverse realtà che Gloria Polo racconta, si trova anche il momento del giudizio che attenderebbe ogni anima subito dopo la morte. Ovviamente si tratterà di una visione simbolica che non dice tanto della realtà effettiva del giudizio, ma mi colpisce perché credo che esprima il senso profondo del giudizio dopo la morte. Gloria afferma di aver visto tutte le anime, compresa la sua, che ha vissuto in anticipo questo momento del giudizio, mentre si presentano davanti al Signore e viene aperto il libro della vita. Le pagine vengono sfogliate a una e ogni anima ripercorre davanti al Signore tutta la propria esistenza, nel bene e nel male. E si scorge la verità essenziale di ogni scelta che si è compiuta pro o contro Dio. È come se in un momento si facesse verità sulla propria vita e non si potesse nascondere più nulla. E alla fine, dovendo riconoscere la reale consistenza nel bene o nel male delle diverse azioni, ecco che l'anima capisce un po' da sé quale sia il giudizio verso il quale deve andare incontro. Non è che il Signore stesso non pronunci il giudizio, ma è come se il giudizio che il Signore pronuncia conferma quanto ogni anima con estrema onestà dovrebbe riconoscere di meritare per come ha vissuto. Nello sfogliare il libro della vita, l'esistenza viene poi misurata in base ai 10 comandamenti che manifestano poi l'amore che l'anima ha nutrito per Dio, a conferma di quell'insegnamento di Gesù che troviamo al capitolo 14 di Giovanni: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Allora, qui non si tratta di fare il check della lista del decalogo per dire ce l'ho, manco, o vediamo quante regole hai trasgredito, vediamo se fare la multa. Non è un problema di, non so, di giurisdizionalismo teologico o morale. È il problema di prendere sul serio la parola di Gesù. Se mi ami, osservi i miei comandamenti. Se mi ami, ti fidi di me. Se mi ami, fai quello che ti dico, fai quello che ti chiedo. E tutto quello che i comandamenti ci chiedono, cari amici, lo sappiamo bene, sono esattamente un bene per l'anima stessa che questi comandamenti vive. Quindi è normale che questo libro della vita venga aperto e un'anima si trovi a vedere giudicata ogni azione, ogni frangente della propria vita, ogni momento, anche quelli forse più dimenticati quando eravamo più piccoli e non abbiamo più magari memoria di queste cose, e tutto viene giudicato in base ai 10 comandamenti. Ma l'immagine che più mi ha colpito in merito alla visione che ha avuto Gloria Polo in questo viaggio mistico sul momento del giudizio che attende l'anima dopo la morte è quando dice di aver visto le anime delle persone appena morte che arrivano nell'aldilà e sono accolte tra le mani di Gesù. Ecco, Gesù accoglie ogni anima tra le sue mani e le appoggia con infinita tenerezza sul suo petto, sul suo cuore. Perché, dice Gloria, ogni anima conosca quell'amore eterno, quell'amore infinito, quell'amore incommensurabile che le aspettava da sempre. E questo capita anche nel caso di quelle anime che hanno rifiutato Dio. Capita anche nel caso di quelle anime che hanno rifiutato la divina misericordia. Capita anche per quelle anime che all'ultimo hanno scelto, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, ai numeri 1033 e seguenti, l'inferno. Hanno scelto l'inferno come stato di autoesclusione di un'anima dalla comunione con Dio, un'anima che muore in peccato mortale senza pentirsi, che vuol dire senza volersi pentire. La porta della misericordia, a cui facevamo riferimento poc'anzi, non si apre per tutti i peccatori, si apre per tutti i peccatori che si pentono. E qui dobbiamo ricordare quello che è il monito di Gesù all'adultera perdonata: va e non peccare più. Ci deve essere un pentimento sincero che porta un cambiamento di vita. Ma certo, soltanto il Signore conosce i cuori, soltanto Lui può fissare i tempi e i modi della conversione. Noi non possiamo giudicare la persona di nessuno, il cuore di nessuno, ma il comportamento sì. E certo che non dico chi sono io per giudicare. Io sono un figlio di Dio, educato dalla Chiesa, che ha delle norme morali ben precise e posso giudicare, come dice San Paolo, da uomo spirituale che giudica tutti e non è giudicato da nessuno, posso giudicare le azioni e i comportamenti, non la persona, quello no, le attenuanti, le ragioni più profonde, quelle le può conoscere soltanto il buon Dio, ma i comportamenti, gli oggetti morali vanno giudicati, ci mancherebbe. Beh, se un'anima, dicevo, sceglie di separarsi da Dio, viene comunque posta sopra questo cuore per conoscere l'amore che lo ha atteso da sempre. E la cosa che colpisce, che Gloria racconta con una partecipazione profondissima, il grande dolore di Gesù quando apre le mani e lascia andare nel vuoto senza fine, nella dannazione eterna, le anime di coloro che lo hanno rifiutato. Ed è un volto straziato dal dolore, un cuore ferito dal dispiacere di perdere anche solo un'anima, perché quell'anima l'ha amata da sempre. Ecco, questo è importante, capire quanto dolore c'è in Dio per queste anime che si perdono. Dio è misericordia, ma non la misericordia di un giudice lassista, è la misericordia di un padre innamorato di tutti i suoi figli. Mi ricordo quando durante una catechesi sulla vita eterna una persona si alzò e mi chiese: ma come può essere paradiso il paradiso di un padre che non ha con sé suo figlio? E qui non si riferiva tanto questa domanda al dire un padre che muore prima di suo figlio ed è lì da solo. Si riferiva all'idea di un padre che è giunto in paradiso e a un certo punto si accorge che l'anima del figlio si perde per sempre, è dannata. Questa persona che ha fatto questa domanda era mio padre, che si riferiva alla possibilità che magari uno dei suoi figli potesse rifiutare la salvezza, rifiutare la fede, rifiutare la misericordia. E quindi mi diceva: ma come può in questo caso un uomo, un padre, una madre essere nella gioia se manca all'appello quell'anima lì? E questa domanda che lì per lì mi ha spiazzato, ecco, però ho intuito che si potesse rispondere in questo modo, citando proprio questo episodio di Gloria Polo. Ma prova a immaginare quale paradiso è per Dio quando perde anche una sola anima. Eppure, essendo misericordioso, non viene meno la giustizia. E la giustizia non è tanto il punire con l'inferno chi ha rifiutato Dio, ma è la giustizia di rispettare la libertà di chi ha rifiutato Dio fino alle sue estreme conseguenze. Potremmo in fondo dire, l'abbiamo visto già in passato, lo vedremo meglio ancora trattando nello specifico dei novissimi del paradiso e dell'inferno, come l'inferno sia proprio la garanzia che la libertà dell'uomo esiste, è una cosa concreta e viene presa sul serio da Dio stesso, che rispetta la libertà dell'anima al punto tale da permetterle di rifiutare il suo amore per sempre. Poi le anime non vengono distrutte, queste sono delle opinioni teologiche senza il minimo fondamento, perché l'anima comunque rimane essere, per quanto un'anima sia dannata, sia pervertita, odi Dio, non voglia accettare il suo perdono e lo bestemmi, rimane comunque sempre una partecipazione all'essere che è Dio. L'anima è chiamata all'esistenza da Dio, quindi c'è un positivo il fatto che sia, perché essere è meglio che non essere, insomma, questo lo diceva anche Aristotele. E allora, di fronte a questo, è chiaro che le anime resteranno per l'eternità. Avranno una pena eterna, sì, ma anche Santa Faustina dice che se guardassimo alla colpa commessa non basterebbe l'eternità nel tempo, ci vorrebbe anche l'infinità nel dolore per corrispondere nel giusto, per pagare le conseguenze del peccato originale o del rifiuto di Dio, no? Nell'ultimo momento della vita. E invece il dolore, dice Santa Faustina, è commisurato a quello che un'anima può portare, cioè la misericordia. Lasciatemi usare questa espressione forse un po' impropria, è come se giungesse addirittura all'inferno, perché per misericordia Dio lascia sussistere per sempre quelle anime che pure lo hanno rifiutato, e per misericordia le condanna sì a una pena eterna, irrevocabile, ma non infinita nell'intensità. Una conferma di tutto quello che abbiamo detto, di questo dolore profondissimo che Dio prova quando perde le anime, si può forse rintracciare in maniera indiretta in quel grande carisma che viene donato a Francisco Marto, uno dei tre pastorelli di Fatima, che tante volte diceva a Suor Lucia: voi andate pure a scuola, io vado in chiesa, vado davanti al tabernacolo, voglio consolare Gesù. Pensate che bellezza, cioè avere un rapporto con Gesù così vivo da partecipare dei suoi dolori e da sentire il vivo desiderio di poterlo consolare. E un'altra conferma viene anche da un messaggio della Regina della Pace di Medjugorje, che il 30 settembre 1984 ha detto: ciò che rende triste Gesù è il fatto che gli uomini portano dentro di sé la paura verso di lui, vedendolo come un giudice. Egli è giusto, però è anche misericordioso, al punto che preferirebbe morire di nuovo piuttosto che perdere una sola anima. Ecco, se capissimo questa grande realtà, davvero capiremmo come San Domenico Savio poteva dire: la morte ma non il peccato. Gesù non vuole anime timorose di lui. Gesù vuole anime confidenti, anime abbandonate, anime che sanno che c'è l'amore del Padre che perdona sempre a suo figlio. Non c'è un giudice spietato, tanto che sarebbe disposto a rivivere quel dramma che è la morte in croce pur di salvare anche una sola anima. Io credo che questi Ecco, riferimenti possono essere sufficienti, no? Per capire quanto misericordioso sia il Signore nel giudizio che attende l'anima dopo la morte. L'abbiamo visto nel Padre Misericordioso, l'abbiamo visto nel messaggio di Gesù a Santa Faustina Kowalska, l'abbiamo visto nell'esperienza mistica di Gloria Polo. Insomma, Dio è divina misericordia e questa misericordia è proprio il criterio di giudizio con cui noi veniamo accolti, no? In fondo, quando ci chiediamo quanto è misericordioso il Signore, dobbiamo proprio ricordare questo, che il criterio di giudizio è la misura della sua misericordia e la vita eterna. È lì che essa risulta decisiva. E la sua misericordia arriva al punto che riesce a perdonare i nostri peccati e a spalancarci le porte del paradiso. Ecco, cari amici, per questa sera penso che sul tema giudizio e divina misericordia possa bastare. Ci lasciamo con una breve pausa musicale, poi ci ritroviamo con le vostre domande che, come sempre, vi chiedo siano brevi e in tema con quanto ho presentato. A tra poco. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, dottor Manetti. Senta, io ho seguito con molta attenzione la sua trasmissione. Mi chiamo Pierluigi e telefono da Merate in provincia di Lecco. Benvenuto. Allora, lei ha parlato molto della misericordia e a me è venuto subito in mente un passo della preghiera del Rosario. Quando diciamo Signore, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, no? Però persino tra coloro che furono testimoni oculari, molti trovarono pretesto per negare ogni valore ai gesti di Gesù e interpretarli nel modo più arbitrario. Dicevano: scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni, eccetera, no? E Gesù cosa rispose a costoro? Rispose avvertendo che la misericordia stessa di Dio è nell'impossibilità di venire incontro a chi vuole chiudere gli occhi, no? E riprendendo un passo del Vangelo di Marco, l'Evangelista dice che tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno. Ora, la bestemmia contro lo Spirito Santo è l'atteggiamento di chi, negando l'evidenza, cerca di interpretare i fatti adattandoli ai propri pregiudizi, quindi sui pregiudizi negano la verità palese delle parole dette da Gesù e dai fatti da lui compiuti. Ecco, volevo un suo parere su questo mio pensiero. L'ascolto Certo. per radio. Grazie, grazie per questo intervento ben strutturato e molto puntuale. Il riferimento è ai peccati contro lo Spirito Santo, tra cui c'è anche il fatto di impugnare la verità conosciuta, quindi di rifiutare in maniera pregiudizievole quella verità che è lampante, palese dinanzi agli occhi. In termini concreti, su un piano morale, potremmo dire che la bestemmia contro lo Spirito Santo è un po' quella che trovavamo nell'atteggiamento dei così conterranei di Gesù, che si scandalizzavano quando lo sentivano parlare come Dio, quando lo sentivano dire ti sono perdonati i tuoi peccati, perché dicevano ma chi può perdonare i peccati se non Dio? Ma in realtà Forse non credevano che neanche Dio potesse perdonare i peccati. La bestemmia contro lo Spirito Santo nella sua essenza è rifiutare l'idea che Dio possa perdonare i peccati e rifiutare l'idea della divina misericordia stessa. Quando pensiamo al tradimento di Giuda, al rinnegamento di Pietro, non so se c'è una oggettiva differenza nella gravità di questa colpa, se è più grave aver tradito Gesù dicendo dove si trovava la notte del Giovedì Santo, piuttosto che averlo rinnegato per 3 volte davanti alle guardie e insomma alle persone presenti per salvarsi la pelle come ha fatto Pietro. La differenza è che Pietro si è pentito perché credeva che Gesù era Dio e aveva fede nella possibilità di essere perdonato. E dall'altra parte invece Giuda non credeva di poter essere perdonato perché i peccati li può perdonare soltanto Dio. Noi non siamo capaci di perdonare se Dio non ci fa questa grazia specialissima che i sacerdoti, più forse addentro alle cose dello spirito, invitano a chiedere dicendo proprio Gesù aiutami a perdonare come perdoni tu, perché l'uomo non perdona, l'uomo magari dimentica un pochettino, mette da parte, fa finta di non vedere, solo Dio perdona veramente, solo Dio è capace di arrivare fino nel momento della morte, invocare addirittura il Padre perché perdoni i crocifissori perché non sanno quello che fanno. Il peccato contro lo Spirito Santo è anzitutto rifiutare il perdono stesso. E allora, se non credo di poter essere perdonato, neanche accoglierò quel perdono che pure Dio vuole darmi. E voglio aggiungere ancora un esempio estremo, che risale alla testimonianza di un esorcista che ben conosco, santo sacerdote. Che proprio durante una preghiera di liberazione si era trovato a dire al demonio, no? Che continuava a bestemmiare Dio in tutti i modi, e dire: guarda che Dio è amore, non lo scalfisce nulla quello che tu dici, anzi, è talmente amore che potrebbe addirittura perdonare te. E il demonio che diceva: no, no, non è vero, non è vero, poi per obbedienza ha dovuto dire: è vero. Se io mi pentissi, Dio mi perdonerebbe. Ovviamente è un'espressione iperbolica, questa qua del demonio, è un'ipotetica dell'impossibilità perché si è pervertito nella sua natura, è fermo nella sua ostinazione, ma fa capire che il problema non è mai dalla parte di Dio, ma dalla parte di chi si è lasciato giudicare da sé in questa maniera irrevocabile e così negativa. Quindi giusta l'osservazione di questo nostro ascoltatore e direi puntuale il fatto di ricordare che proprio il rifiuto dello Spirito Santo e il rifiuto della verità che in Dio assume i contorni, come abbiamo detto, della divina misericordia. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, mi sente? Molto bene, come si chiama? Sono Annunziata, sono una vedova, ho 70 anni e sono stata insegnante e ho tribolato tanto nella mia vita da piccina, sempre nella sofferenza vedo che una si avvicina tanto al Signore. Però le confesso che una non vuole soffrire. Le telefono dalla Sicilia, lei lo sa che è diverso la Sicilia dalla. Io sono figlia di migranti, sono stata in Valpadana, lì in Lombardia, è diverso la cultura. Comunque, però malgrado ciò io non sono pessimista e la sofferenza ci fa crescere. Ci fa più forte, però le confesso che non è a parole facile, però nei fatti si soffre, vibra la carne come. C'è stato l'anno della misericordia di questo padre che accoglie questo figlio prodigo, uno prova tenerezza quando vede questo padre che gli va incontro e per giunta l'abbraccia, quindi è lui che fa i primi passi, lui che aspetta che ci avviciniamo e io ho desiderato anche vederlo faccia tosta, io dico io faccia tosta, come posso desiderare una cosa simile? Sì, l'ho desiderato vederlo questo Dio Padre di una bontà infinita e Gesù che ci ha dato la vita, che una lo ringrazia tanto che ha sofferto per noi e Dio Padre che l'ha mandato su questa terra, si è separato da lui e questo fatto non lo dimenticherò mai. Però ci sono fatti che ci fanno soffrire ed è una lotta perché dice non vorrei soffrire, questo è il mio dilemma, però però non mi sento abbandonata. Stasera sono andata all'Eucaristia, ho ringraziato il Signore, però mi manda delle prove che io, anche salto in aria, però è presente in questi fatti. Come no, grazie, grazie Annunziata per questa testimonianza che io penso rispecchi l'esperienza di tanti tra coloro che sono adesso all'ascolto. E chi di noi vorrebbe soffrire, ma nessuno, il cristianesimo non fa rima col masochismo, non siamo certo a idolatrare il dolore e la sofferenza, sappiamo che sono le conseguenze del peccato originale, sono una ferita, una macchia in quello che era un progetto originario bellissimo, in cui l'uomo era pensato per ben altra esistenza. Sappiamo però che nell'orto del Getsemani persino Gesù ha chiesto al Padre di allontanare quel calice di sofferenza che si apprestava a bere, ma ha avuto la forza di dire, con quella punta della volontà che era liberamente aderente in tutto e per tutto alla volontà del Padre, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Allora, Annunziata, anche quando capita di trovarsi nelle tribolazioni, nelle fatiche, ecco, io penso che si debba pensare che la vita non risparmia a nessuno dolori, sofferenze, prove e difficoltà. E uno può pensare alla propria vedovanza e un altro può dire invece mio marito è già avanti che mi aspetta. Sono modi diversi di considerare le stesse situazioni. Uno può guardare l'infermità che lo colpisce, lamentarsi di non poter più correre, muoversi, agire come un tempo, e un altro può dire Signore grazie perché io questa cosa te la posso offrire per queste persone, per questi familiari, per questo figlio che diversamente non saprei come aiutare. La vera liberazione è proprio quella di immaginare che in vista di un incontro faccia a faccia col Signore nel giudizio particolare possiamo presentarci avendo avuto la pazienza di accogliere queste croci. E Santa Gemma Galgani diceva proprio Gesù, devo imparare ad amare la croce, non la mia ma la tua, voleva dire non quella che vorrei io ma quella che scegli tu. Non dobbiamo cercarle, le croci arrivano da sole perché il Signore sa benissimo ciò di cui abbiamo bisogno, ma conosce anche la nostra forza. E come dice la Scrittura, Dio permette la tentazione, ma dà la forza per superarla, cioè qualunque prova siamo chiamati ad affrontare, con la grazia di Dio la possiamo anche superare e ogni vittoria ci rende più forti e più protesi verso quel paradiso e quel cielo che è la nostra vera meta. Bene, carissimi amici, termina così il tempo a mia disposizione. Voglio ringraziare davvero tutti per l'ascolto, la partecipazione e le domande che arricchiscono questa trasmissione. Chi non fosse riuscito a prendere la linea lo potrà fare sicuramente la prossima volta o mi può scrivere a Radio Maria oppure contattandomi sui social o attraverso l'email. Chiedo a tutti preghiere, in modo particolare per il Santo Padre, per i pastori, i nostri vescovi e per tutte le persone sofferenti nel corpo e nello spirito. Ringrazio Marco in regia, auguro a tutti una santa notte, un arrivederci al prossimo appuntamento da parte di Diego Manetti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.